París. Io tengo a cassonata, novizia grossa assaia, non aggiù verso mai, ma trovo lo perché. Mi è sempre piaciuta da stare in allegria e la malinconia. Non sa se che roba è, tutto parite, e che ci posso fare? Non me ne importa se sono che sbaglia. Tutto ride, che ci posso fare? Non me ne importa se sono che sbaglia. Io ride, se uno chiagna, se sono disperato, se non ha giù magnata, ride senza pensare, ma pare che renna ogni turniente passa, se se la crea e spassa, chi all'era se può stare, sarà difetto grosso chi sto qua, ma io tengo e non posso chi lo ha, sarà difetto grosso chi sto qua, ma io tengo e non posso chi lo ha. Mamma. Che allegria, che se allegria. No, chi lo come dice dalla televisione? Allegria, allegria. Chi è? Che dice? Anche un nonno mio diceva, lo nonna mia diceva, che tutta lì facenne, facevi sarrenne, e a così voglio fa. Chi si ho difetto mio, voi mo già lo sapete, siamo con me e rite, che bene va farà, rite gli mia. Appena mi farà, ride e gabbia, auguri, auguri. Allora, Pestertina, per il piccolo tre re, una bella signorina si ammirava innanzi a me, ammirando il dondolio del grazioso Sorgitin, ascoltavo il tintinnio di parecchi suoi oggettin. La sua borsetta faceva tacca, i dondolini se, i tacchettini tic, e anche il sera tacca. Mentre il mio cuore che batteva di più, batteva su. Ma costai, ti presentai, lei è papà, e lei le ri. Così che la invitai a montare in un taxi, se ne andammo per via Tasso, per godere in libertà, senza inficci né fracasso, la poesia della città. Passea il motore, tac, passea la tromba, tec, passeano i vetri, tic, passea il cazzol, mentre i cuscini dell'auto blu passea su. Con la sera che distese, dal morale stava su, la compresi, mi comprese, e da voi passammo al tu. Lo sefer intelligente, la sua corsa rallentò, e così naturalmente, quel che accadde ordinerò. Voltai la luce, e fece, ah, si ruppe un vetro, e fece,